nel bosco, nell'ombra te vivi, e pochi può vederla dove la grazia. Fata del bosco, ascoltami un poco, ai vieni a cantarmi nei sogni che fo, non voglio mia parte del mar, con chi voglio solo parlare. Nel bosco di che te capisci il dolore di quei come me che sempre subisse le ingiurie del mondo, la timiduria contro l'azione, non voglio mia parte del mare, con chi voglio solo parlare. Nel bosco fai femo una danza e tanta allegria che molti donar al chiaro di luna, giremo e giremo nell'aria serena e pace e bontà, non voglio mia parte del mare, il fatto te porti cambiare.